Facciamo una bitonale con le cose mongole. Bitonale non so, però mongola. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. Un saluto da Drago. Ma oggi è solo mercoledì. Già. Cosa facciamo? Dieta. Come dieta? Eh sì, ormai allarme generalizzato perché la solita ricerca scientifica ha portato alla luce che in Italia abbiamo il 30% dei bambini obesi, ormai è una piaga che non sembra fermarsi più, ecco, quindi dieta. La dieta mediterranea. La dieta, no? Mediterranea è una bufala. Ma vuoi dire che tutti quei dietologi che esaltano l'olio d'oliva, la pasta, la pummarola, si sbagliano tutti? Evidentemente si sbagliano, oppure succede che i bambini italiani non seguono la dieta mediterranea e seguono quella americana a base di zuccheri, grassi, grassi e zuccheri. Dovrebbero fare come me, io faccio una dieta dissociata. Cioè mangio qualunque roba in qualunque ordine, a qualunque ora, infatti, soprattutto di notte. Infatti, infatti cosa? Ti vedo. Guardati che tu, come c'è una bedra. Dai, allora la bedra, la budria. Scusa, dovremmo averlo capito tutti quanti. I bambini giocano poco all'aria aperta. L'abbiamo già detto. Sono sì. Sempre davanti alla TV. Anche questo mangiano, sembra... schifezze, ingrassano. Okay. Mi sembra di parlare di me stesso. Comunque, non è una cosa strana, è naturale che succeda. Quindi basterebbe cambiare le abitudini dei bambini, farli uscire di casa, smetterla di scortarli sempre come se fossero capi di stato in visita ufficiale, lasciarli lo stato barato, bravo capo. Andare, ma il messaggio sai che è proprio questo, però adesso vedi. Anche noi che non siamo più bambini dovremmo cominciare a perdere qualche chiletto, quindi oggi dieta. Però quando io non ce la farò più a entrare in questi pantaloni e ci manca poco, vedo io farò le ventose, mi faccio fare le ventose, senza far ginnastica, si possono perdere, Drago, un sacco di chili. Ma come? È tutto grazie alle ventose. Come funziona le ventose? Funziona che ti sdrai, ti applicano delle ventose che emanano una vibrazione calorifica, calorifica, insomma una roba così. Ma stai cos'è? Fermo lì per mezz'ora, ti guardi una roba sul DVD, ti mettono un DVD, così bene, stai bravo, tipo un episodio stai di una bravo serie. Mi piace, sì. Sono tutti agili. Paghi un sacco di soldi e te ne vai. E dimagrisci. Sì, certo. Senza fare diete. No, beh, certo, devi mangiare sano, capito? Come? Zero pane, zero pasta, zero alcol, zero negroni, solo proteine. Ma dimagrisci per la dieta, non per le ventose. Cioè, non ho capito. Non lo so, potrebbe essere, però ti assicuro che il fatto che paghi un sacco di soldi per farti mettere ste ventose fa sì che anche a tavola ti comporti meglio. Quindi farebbero prima a multare chi è sovrappeso, capito? Ma in che senso? Cioè, insomma, se alla fine della fiera le ventose ti fanno dimagrire perché costano un sacco di soldi, tu dimagrisci perché paghi, cioè è un po' quella cosa lì. Certo, quindi sì. L'esborso di denaro si traduce in dimagrimento. A quel punto basta mettere delle sanzioni pecuniarie a chi è grasso, almeno farà in modo di dimagrire. Ecco, cominci a darmi 50 euro che quel panino prima. E ora, bambini, ricreazione! Dai, cos'è quella faccia lì depressa? È depresso, lui, bambino Alberto, una sociale. Stavolta la situazione è gravissima. È gravissima. Datemi retta, è mia madre che è impazzita. Come impazzita? Ma cosa, vabbè, adesso sono i bambini che sanno. Ma cosa ha fatto? Se n'è andata di casa? Ti ha abbandonato? No, magari! No, anzi, è ancora più presente. È cominciato tutto da un articolo di giornale, no? Che parlava dell'obesità dei bambini. Tu voglio dire, ti riguarda, no? Cosa, che facce fai? Ti l'obesità, guardati. Non cominciamo a insultare, comunque, in questo articolo si diceva che i bambini italiani stanno diventando sempre più obesi e bla bla bla. Guarda che ne abbiamo parlato fino adesso, non è una novità, quindi Alberto, arrivi buon ultimo. Ma stavolta l'articolo è di un giornale comunista. E beh, l'ha ripreso in tanti. Quindi mia madre ha preso tutto per un colato, no? Si è infogliata subito. Perché questo articolo riportava una specie di decalogo, no? Decalogo. Un elenco. Anti-obesità. Che non sono le 10 domande, quelle. No, perché c'è un giornale non proprio comune. Quello che ha fatto le 10 domande, cioè il bambino d'avanzo, come sai, anche lui purtroppo è morto. Ma non sono domande, poi sono risposte anti-obesità. Anti-obesità. E mia madre ha deciso, vista la fonte, autorevole, di farmele seguire da lei. Ma fa bene tua mamma, perché anzi tu dovresti essere contento che si preoccupa per te. Vuole che tu cresca sano e forte in un mondo in cui quelli grassi sono visti male e quelli magri invece sono visti bene. Appunto, deve dimagrire. No, perché voi non vi rendete conto che questo fatto qua vi sta per cambiare la vita. Amen. È tutto per prevenire l'ipotetica e remota possibilità che io col passare del tempo posso diventare obeso. Eh sì, remota possibilità che col passare del tempo, vabbè. Vabbè, ma vi prendete in giro? Ah no, dai, niente, su. Niente, dai. Come no? Io mi rivolgo a voi per avere conforto? Sì, che siete gli unici amici? Amici. Ok, Gildo? Vabbè, Gildo è un'altra cosa. È un'altra amico, cosa. Ma... E non puoi parlare per le cose serie, certo, di venire da noi. Allora, per farvi capire, comincio a dirvi i tre punti cardine di questo sciagurato decalogo. È un decalogo, ce ne legge tre. No, ve ne dico tre giusto per dirvi. No? Allora, 4 ore di sport alla settimana. 4 ore, di 7 giorni. Andare all'asilo a piedi e addirittura niente TV in cameretta. Vabbè, cosa vuol dire? E in più sono anche costretto a portare al polso un accelerometro. Un accelerometro. Sarebbe una specie di bracciale che calcola i tempi di movimento nella giornata, no? Una roba da Grande Fratello, da Inquisizione! Ma cos'è? Ma che sembra una roba dei carcerati. E i risultati di questo accelerometro certifica che io faccio parte di quel 60% di bambini che si muove meno di un'ora al giorno. Beh, sei sempre fermo. Come se questo fosse un problema. Cioè, tanto meglio, no? Vabbè, cioè, tu praticamente, a parte i movimenti obbligati, tipo andare all'asilo o andare in bagno, diciamo, quelli sono obbligati. Stai immobile per tutto il resto della giornata, evidentemente sul divano. Ma sei sovrappeso, dai, no, ma questo trovo del peso sta diventando una roba da... Cioè, dai, di cattiveria. Vabbè, comunque, senti, non è un regime così duro quello che descrivi tu. Devi fare un po' di ginnastica, la fanno tutti, cioè. Ho detto solo che vi avrei enumerato tre punti cardine. Vabbè. Ce ne altri, certo. Allora, c'è il divieto assoluto di bere bibite, succhi di frutta, tè. Vabbè, ma è normale, gli zuccheri. Divieto di sedersi sul carrello al supermercato. Cosa? Ma perché quello cosa c'entra? E ogni 2 mesi visita pediatrica per controllare l'EAR. Eh? È l'EAR. L'EAR. È l'Early Adipositi Rebound. Lì a depositi rebound. E allora vi devo dire tutto. Cos'è? Sarebbe l'indicatore del precoce aumento della adiposità. Follia! Come una follia? E addirittura, ma questa è grossa, sospensione del biberon entro i 12-24 mesi. Ma cosa c'entri tu col biberon? 12-24 mesi. Come cosa c'entro? Il biberon, guarda che, cioè, uno nei primi 2 anni lo prende per necessità. E dopo può essere una scelta, no? Ma beh, io lo uso comodo, il biberon quello maxi. Quando sto davanti alla TV. Ma come? Allora, mi faccio il biberone, siccome è comodo, c'è quella roba lì per ciucciare di gomma. Che ti puoi sdraiare sul divano e io ciuccia. Ci metto dentro di tutto, no? Ma se ti va di faccio dei bevandi energetici, così posso mettere le serie di TV e stare alzato fino alle 4. Metto latte condensato, succo di frutta, zucchero liquido. Caffè? Ma come caffè? Guaranà? Ma senti, la Red Bull, ma oh! Bambino Alberto! Quello lì no, è quello, è che non so nemmeno lo danno, mi dico tu, hai 18 anni, dico, secondo lei? No, allora la Red Bull no, non gliela diamo. Force for what they did today. But I prefer that my chief tell in English what we did. Come la rifacciamo? Insomma, ministro. Ma io stavo suonando. Ma stava parlando anche tedesco. Ha detto my chief, intendeva la nave, la probabilmente nave, militare nave. In tedesco chief, vero? Chief, senti, è così. Chief. Vabbè, ministro La Russa, allora, se vuole imparare l'inglese può farlo anche per corrispondenza qui a Chiedo Asilo. Offriamo abbastanza una nostra conoscenza così dell'inglese scolastico. Può chiamare in segreteria allo 02 46 52 44 95, scrivere sulla nostra bacheca di Facebook oppure scrivere a Chiedo Asilo e radio24.it. So, deine Schiff nicht unter geht. Cosa ho detto?